Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, eccomi qui. Oggi voglio parlarvi di Tabata. È un allenamento che promette di bruciare i grassi, di aumentare la resistenza, di guadagnare o ritornare ad una forma smagliante senza bisogno di molta fatica, senza bisogno di attrezzi, pesi o altro. Lo conoscete? Avete sentito parlare di questo tipo di allenamento, di Tabata, così si chiama? Vediamo se fa il caso nostro. E allora ho invitato stamattina a bere il primo caffè con noi una nostra vecchia conoscenza, il dottor Mattia Cappelletti. Buongiorno, dottore. Buongiorno, buongiorno. Medico, esperto in nutrizione applicata e sport. Tabata, di che si tratta? È un protocollo, in realtà, è uno schema di allenamento che si basa un po' su quello che è l'interval training, quello di cui abbiamo già parlato, che già conosciamo bene, il nostro veloce veloce lento lento, per cui si basa, certo, su questo principio, e è un'applicazione particolare. Arriva dal Giappone, o meglio è stato ideato da un medico giapponese, da qui il nome, è vero? Il dottor Tabata. Sì, il dottor Tabata. Sembra vero? Sembra il nome di un fumetto, in realtà. Esatto. Esiste. L'ha pensato e l'ha pubblicato per la prima volta nel 96, per cui in realtà non è che proprio sia un allenamento nuovissimo da questo punto di vista, però in realtà il fatto che abbia ormai un po' di anni sulle spalle fa sì che poi si sono create tutta una serie di varianti, di scostamenti dal protocollo, ed è stato un po' più applicato, quindi c'è qualche dato in più. Noi lo chiamavamo veloce veloce lento lento, ci spiega però esattamente come funziona? Sì, partiamo allora, dal protocollo classico. Il protocollo classico innanzitutto è cardio, per cui non ci sono pesi, non ci sono strumenti aggiunti, eccetera. Si faceva proprio con degli scatti, delle ripetute in qualche maniera, e sono 7-8 di queste sessioni ad altissima intensità, più o meno da 20 secondi l'una, con 10 secondi di riposo tra una e l'altra. Per cui come funziona? Sono 20 secondi veloce veloce, per cui di correre al massimo, ma in questo protocollo si parla davvero di delle intensità il massimo fisicamente possibile, per cui un modo di dire è il 170% dell'intensità, per cui intensità estremamente elevate per 20 secondi e poi 10 secondi di rilassamento, e si ripete tutto questo per 7-8 volte. Beh, sembra facile raccontata così. È faticoso, dottor Cappelletti, o questa alternanza in qualche modo permette un po' a tutti, anche a quelli meno allenati, di raggiungere i risultati? Perché insomma, chi non ha 4 minuti di tempo? Esatto, il punto è che a fronte di una durata molto ridotta l'intensità è davvero molto molto elevata, soprattutto sono 4 minuti di lavoro, ma dato proprio l'intensità di questo esercizio è fondamentale metterci 4-5 minuti di riscaldamento e anche un buon quarto d'ora di defaticamento dopo, per cui in realtà 4 minuti è l'esercizio, ma bisogna contare che più o meno è una mezz'oretta, che comunque non è tantissimo. Però comunque il tempo effettivo poi di tutto l'allenamento è più o meno mezz'ora. Ma funziona? Mi fa bruciare i grassi, potenzia la massa muscolare. Che cosa possiamo aspettarci da questo protocollo di allenamento? Allora, è un protocollo che è studiato per quello che è l'attivazione metabolica, per cui funziona, sì, funziona nel bruciare i grassi e nella sua variante classica, per cui in quella con una più spiccata parte cardiovascolare, anche un'azione di migliorare quella che è la resistenza all'allenamento anaerobico, per cui allo sforzo intenso. Non aumenta la massa magra, non ha uno stimolo da questo punto di vista, per cui ha un'azione brucia grassi però se fatta nel modo corretto. Non ci si può improvvisare, specialmente non ci si può improvvisare a fare gli esercizi, perché per quanto siano esercizi anche facili, cioè proprio prendiamo l'idea di fare degli scatti, per cui una corsa intensa, in realtà proprio per il fatto che l'intensità è molto elevata, il movimento deve essere quello corretto. Per cui proprio per l'intensità, proprio per il veloce, bisogna imparare a fare le cose fatte piano e poi piano piano velocizzarsi in qualche modo. Dottor Cappelletti, quindi questo mi fa pensare che non sia proprio adatto a tutti. Non è per tutti, perché per raggiungere appieno il beneficio bisogna poter riuscire a raggiungere l'intensità desiderata. Per cui è per tutti dopo un po' di allenamento. All'inizio, per poter vedere appieno i benefici, c'è un po' di curva di apprendimento, diciamo. Posso ispirarmi al metodo Tabata per rendere più efficaci alcuni esercizi o anche la passeggiata che faccio con il cane o quando vado a fare la spesa o al lavoro? Assolutamente sì. Il punto di forza di questi allenamenti, che sono comunque l'allenamento a intervalli, è proprio nel fatto che gli intervalli, quindi la variazione di causa, proprio un aumento del consumo, un'attivazione metabolica maggiore, per cui assolutamente non sarà un protocollo Tabata, però ci si può ispirare a questa modalità di allenamento per fare degli scattini, per cui quella che può essere davvero la rampa di scale, perché in genere sono sempre a coppie per salire un piano, per cui c'è sempre una rampa che si può fare un po' più piano e una rampa che si può fare un po' più lenta, oppure anche semplicemente la passeggiata, il giro del quartiere, il giro dell'isolato, le strade, esatto, assolutamente. Per cui si può ed è una buona cosa, ed è un buon metodo per tenersi attivi e per capitalizzare il più possibile quelli che sono i momenti di spostamento. Lei ha detto, dottor Cappelletti, che è necessario fare un riscaldamento e anche naturalmente a chiusura dell'esercizio, dell'allenamento, anche un defaticamento. Allora, dipende dal tipo di protocollo che uno vuole fare, per cui ad esempio se uno fa il protocollo classico, per cui quello della corsa, si parte proprio camminando o facendo proprio una lieve corsetta in modo da preparare i muscoli a quello che sarà lo sforzo. E il defaticamento uguale, un defaticamento che sia un riposo attivo, per cui una camminata o un qualcosa che favorisca la spremitura e in qualche modo il lavaggio dell'acido lattico dal tessuto muscolare, perché proprio in questi protocolli estremamente intensi è importante da un lato preparare il muscolo, preparare le articolazioni allo sforzo, quindi evitare di farlo a freddo, che è il modo migliore per infortunarsi, per cui meglio di no, ma soprattutto se si riesce a raggiungere un'intensità estremamente elevata si crea un accumulo di quelli che sono tutto l'acido lattico in primis e anche il più famoso di tutti questi metaboliti tossici che sono prodotti di scarto dall'intensità e dall'esercizio, e in questa maniera mantenere quello che sia un recupero aerobico, per cui con delle pulsazioni più basse e con un'intensità assolutamente blanda, favorisce l'apertura dei vasi e tutta l'attivazione del microcircolo e quindi quello che è il normale defluire di tutti questi prodotti che vengono poi portati ad esempio a livello epatico, dove vengono sistemati e coniugati in modo che non diano problemi. Dottor Cappelletti, chiudiamo con un avviso ai naviganti, ai tabatanti, insomma. Sì, gli avvisi ai naviganti. Avvisi ai naviganti, assolutamente il primo, che è vero che sembra un'ingenuità, ma è spesso, troppo spesso dimenticato: idratarsi, ricordarsi di bere. Perché è sicuro che se uno va a fare 40 minuti di corsa si prepara con la borraccia, si prepara con la cosa, ma se fa 4 minuti di esercizio inizia a dire vabbè, ma sono 4 minuti, non ho bisogno di idratarmi. Invece, proprio perché è un esercizio estremamente intenso, è fondamentale l'idratazione. L'altro aspetto è quello di fare attenzione a dove si fanno gli esercizi, perché un esercizio molto intenso ha bisogno che la superficie di lavoro sia normale, per cui ad esempio attenzione alla spiaggia, la spiaggia molto bella, ma fare uno scatto sulla sabbia o fare degli esercizi ripetuti molto veloci con un piano di appoggio non stabile può non essere la soluzione proprio ideale, magari ci spostiamo un pochino sul bordo o sul lungomare a fare questa cosa. E se l'obiettivo è quello di dimagrire, ricordarsi di non affamarsi, perché essere troppo restrittivi a tavola, non mangiare, avere proprio un sacco, avere troppe poche calorie, fa sì che il corpo, a fronte dell'esercizio, quindi a fronte di uno sforzo che non si aspettava di dover compiere, vada ancora di più al risparmio. Quindi attenzione, mangiate a sufficienza. Grazie, dottor Cappelletti, per essere stato con noi. Abbiamo preso nota, le faremo sapere. Torni presto a trovarci. Le auguro una buona giornata. Anche a voi, buona giornata. C'è Carmelo Lauricelli in regia oggi con noi, Lorenzo Nespoli in assistenza, Laura Vanossi in redazione. Come sempre vi do appuntamento dopo il GR delle 12 per le notizie che arrivano dal mondo della ricerca.